Chi è? Chi è? Avanti, avanti, chi è? Buonasera. E boia. E boia, Buonasera, signor Boia. Vabbè, usciamo poco. Allora, come andiamo? E allora stai provando il PMR? Io non ho mai provato il PMR io. Adesso senza direttiva in pratica, senza motore. Ah, senza motore? Non ho staccato il motore, mi ero attrezzato, cosa volevo fare? Adesso c'è solamente la massa del palo e basta. Eh beh, sta uscendo abbastanza bene. Molto più forte. Eh beh, più forte sì. Molto più forte, ascolto anche a te addirittura, figurati tu. Eh beh, perché non mi stai ascoltando? Non ho voglia. Sono dove 5-6 semi, la di 5. Sono dentro la stanza io. Vedi benissimo, ci mancherebbe. E allora, mangiatela la zuppa. Ingrassata ti sei. Porca. Ingrassato mi sono, diceva quello. Maiale. Usciabuco. Hai visto bello bene, hai visto? Hai visto bello bene, hai visto? Io non sono gazzano, lo sai? Mi ha mangiato questo, mi ha mangiato quello, mi ho cucinato quello, mi sono fatto una passata di tiramisù. Si trova, gazzano, ti tira giù direttamente fa prima. Allora. Ah, ma non ti sei coricato? No, ancora no, non mi sono coricato. Sono sceso giù a Giampiero, ti ho dato da mangiare. Poi gli ho aperto il bar, gli ho aperto. Ho detto, guarda che devi fare tutti i gusti. Ah, tutti i gusti? Allora. E che gusti ci sono? C'è. E tu non hai assaggiato, no? Che esecco tu. Ho fatto assaggiare a lui. Dice, fammi assaggiare un po' di tutto, mi ha detto. Assaggia, cosa cazzo mi la frega, mi ha detto. Ma buona è. Tanto la vita è la sua. Appunto per quello. No, comunque la... Era tutto quanto a posto, tutto la chiara, quindi a un certo punto io, secondo me, ma era molto che non guardavo così, mi ha detto, molto veleno. E fa bene. Ogni tanto qualcosa ci vuole, ma non esagerato però. Ah, appena, io l'ho messo. Ma no, dopo 20 anni, cosa dovevo fare? È come avere, come ti posso dire? Mangiare il ghiaccio dopo 20 anni. Ho capito. Quindi figurati tu. Va bene. Io già avevo preso, già avevo un pezzo di cosa, di polenta, fatta arrosto, e poi le patate fatte così dello stesso arrosto e l'insalata. No, io mi sono mangiato il pesce, mi sono mangiato quello che ho fatto a pranzo, ce l'hai visto. Dopodiché, basta un po' altro. Adesso fa un po' mi lavo i capelli, mi ritaglio e ce l'ho detto. E fai bene. Poi domani? Domani? Stavo dicendo che domani ho detto... Vado a portarmi un po' di cose, non faccio. Per vestire e sono a posto. Fai bene. Ui. Per carità. Ma lui ce l'ho, mi ha scritto meglio come la parete di Palenzi. Prima la massa non c'era l'antenna, quindi adesso c'è la massa. Cazzo, è un'altra cosa, Antonello. Cazzo, là non ti riuscivo manco a comprenderti una pega. Adesso sono in camera e ti ascolto, cazzo, mi sta arrivando 9:30 qua. Sì, quindi figurati. Vabbè, molto bene, ma è più dato qui che volevo fare a un certo punto. Adesso vediamo, cambierò un po' e troverò le cose, cosa devo fare. Non per adesso, ma di seguito ne parliamo. Vabbè. Antone, se non te lo cambia adesso il motore, te lo cambierà un altro momento. Adesso è un gioco, se ti cambia le cose, basta. qualche altro. Mi porto la partenza contro i vestiari, dopodiché mi trovo la parete da lavorare sulla ponte. E l'importante è che ci facciano quella cosa là, poi, hai capito? Oggi è 30, domani è 1, poi c'è 2, 3, 4, 5, 6, 5, andiamo i cosi montati, immediatamente dovevo comprarmi l'apparato e sono a posto, sulla strada, poi il resto lo tengo da sempre qua. E vabbè, l'importante è che va bene. E tu pigliati il cavo per me. Pigliati il cavo, l'antenna va a far culo, a un certo punto lì, non deve stare così, perlomeno. E tu pigliati l'antenna per la 27, un'antenna leggera, lì, quella celeste, quello che è. Ti metti quella e va a far culo a un certo punto. E adesso vedo un po' quanto me la lascia. Dipende quanto ne vuole. Secondo quanto ne vuole me la prendo, se no mi compro il cavo e mi metto quella lì. Io altra cosa non posso fare. Giuseppe, non è quello il problema, come pensi tu. Quella che non ha avuto più ormai, hai capito? Quindi ti fate una ragione, ci metti quella celeste, quella che hai visto tu. Ti metti quella e il cavo. Quello nuovo, il cavo qui che limite lo lasci per la più o meno va per culo, a tu per fare, hai capito? A questo punto se puoi leggere un solo di altro, ti puzzo anche. Vabbè da, adesso mi chiudo leggermente gli occhi e ci sentiamo più tardi, da. Ciao ciao. E via, d'accordo, più tardi allora, ok. Ciao ciao dopo. Ciao ciao. Che tento cuffetta? 5 minuti mi faccio la barba, sto finendo. Luca. Che tento cuffetta? Ehi, hey, dimmi. Caldo nai. Preoccupaggio. Caldo nai. Una media di mezzo. Beh, Luca. E oggi, come mai ti sento bene bene? Come mai? Cosa c'è l'antenna? No, io c'ho una. Mi sono fatto un'antenna. Mi sono costruito un'antenna. Grazie. Arrivi abbastanza bene, bello forte, chiaro chiaro. Allora vedi, le cose fatte da sé riescono sempre migliori, sono le migliori. E per il garo grigio, no, sei perfetto, mai ti ho sentito così bene. E figurati, la radio che c'ho io è il portatile col gommino ed è un'altra vacca cuffato buco, è dato di buccia. Luca, ci sei? Marco, mi chiamo, se no non ti rispondo. Lucrezia, ci sei? Luca, ci sei? Chi c'è sotto le manti, le uci? Ho sotto la frittata di asparagi. Chi è? Oia, oi mai? Tutto a posto? Tutto a posto, niente ordine. E dove sei modulando tu? Ho detto da dove stai modulando? Grazie. Non l'ho sentito, non ho sentito un passaggio corto e chi era? Luca, ci sei? Sotto le copertole sì. Ma vai dagli cazzo, Luca, vai tu qui Giuseppe Lieto. Entra e fuggi. Quasi l'entrata da leone e l'uscita da manicomio. Luca, rispondi se ti sei fatto in corpo, lascia il piccotto. Grazie, e Gio Maria, che fine ha fatto? A riposo. A riposo, se entra salutamelo. Se entra già lo saluto. Io ci sono, mi grazia. E beh, Lucchezia. Ma non sei già Leoncino. Luca, rispondi, a Leoncino non lo sei. Prima la buona, non si sentiva niente, mi senti? Io ho detto sento forte e chiaro, Luca, tu mi ascolti? A voglia, forte e chiaro. Vedi, mi sono costruito un'antenna per le PMR, si sente? Si sente bene? Ehi, forte e chiasso. Tu, grazie, mi senti? Sì, che si sente, ma sta bene. Meglio così. Tu dove sei, Filoncino, dove sei? A casa sono. E dove abiti? In che zona abiti? Io sono nella zona del monte, alla fine di via Baldetta. Addirittura, cazzo, arrivi bene. Ma tu dove sei, a Canica? No, io sono qua a Pisa, vicino a Graziano. Allora, vedi, a me Graziano mi arriva a fondo scala qua. Ehi, Graziano, perché sta, c'è la linea attaccato, capito? Ah, va, chi mi l'hai detto? Il barrato, grazie. Ah, vai, digli un segreto al bambino. È perché tanto no, tanto cazzo non l'avrei scoperto, grazie. Ehi, sempre uno vinne, altri immaginei. Poi te ne tiro la lingua, Luca. Ciao, un lineare da un terapai. E da quando è quel bambino? Da quant'è? Oh, grazie. L'ho detto io, da un terabyte. Te l'ha detto Luca, a me non me ne dice. Da quant'è quel bambino, grazie? Sto facendo io, sì, buonanotte. Da un terabyte, un chilo quattro. Cazzo. Addio corrente, mi. Io c'ho il pannello solare. Ah, Ambrose si chiamava. Anche un altro ce l'ha il pannello solare, il flipper. Già lo so. Adesso se lo deve mettere in manicomio, vero manicomio? Io ho già piazzato. Adesso devo attaccare solo l'amplificatore e basta. Hai visto, Leonci, tutti moderni vogliono essere. Poi ti faccio vibrare le mutande da qua. A Luca nelle socie delle mutande si ha messo il reggiseno. Appiro. Le mutande da qua, aspetta. E che fine ha fatto Flippero? Tu sentito lo hai, lo è uscito? No. Da quando si sta dedicando alla cubicatura e al materiale elettrico è un bel impegnato. È meglio così, almeno c'è qualcosa da fare, grazie. Quello pure già è vero. Uia. Casino, allucinante. Tu puoi scendere dai mani, io tranquilla, sereno. Mi sono alzato per farmi la doccia. E ora c'è tutto influenzato. Luca, l'hai vista la pipetta che ti ho mandato? Fuma a fumo. No, quella è a vapore. Metti in un treno. Ti va di me fumate, uia. Guarda che vapore, mi, questo è il sapore liquirizia. Ma quelle sono pericolose, capito? Non è vero, tutte balle. Questo è... non ce n'è tabacco, niente. Se vuoi lo metti, se non vuoi non le metti. Sono aromi, sono. Con questo liquido che va miscelato. Tricopidina, adesso non mi ricordo come si chiama. Già c'è scritto. Lo miscele e poi ci metti il sapore che ti piace. Se vuoi ci metti anche la nicotina, ma io non la metto. È solo i sapori di frutta, tutti qualsiasi sapore c'è. Ma comunque sono fatti animali uno a stessi. A me non me può fregare meno. Ma questa spinata non è faino. Fa il fumo e fumo, vapore, non è fumo, è vapore. Ma nella sigaretta elettronica stai dicendo, grazie. Dimmi. Ho detto nella sigaretta elettronica. Ehi, è la pipa elettronica, mi sono fatta arrivare. È bella, funziona bene. fanno il vapore, boh, non è fumo. E poi non ce n'è nicotina qua. Se vuoi la metti, compri la fialetta e la aggiungi. Ma io la uso senza nicotina. Ma che ci pone la nicotina è come te che ti sei fumando i sigaretti. Ah, io ce l'ho la sigaretta elettronica. C'ho il coso, il liquido quello da 9, capito? Però non nicotina, alla cosa ce l'ho, alla menta. Io ce l'ho alla menta, al mentolo, e questo qua è alla liquirizia, questo che ho adesso. Ne ho due tipi, e un altro tipo ce l'ho dentro, mi sembra che ha gusto fragola. No, io ce l'ho a 9, però non è liquirizia, è dal mentolo, hai capito? Quella è gusto della menta, dai. Eia, ce l'ho anche io quello, alla menta. Quello lì ce l'ho nella sigaretta elettronica, che ce l'aveva pagata 75 euro, lo è di 15 13, no? E questa pipa costa 130 euro, questa che mi è arrivata avanti lì. Io l'ho pagata 40 euro. Ma questa è professionale, è originale, tutta di marca. Lo è di 13, no? Di 13 viene una gelata canto di voi. Però non funzionano mai bene. Se prega che cosa, chi non funziona bene quelli. Qua assorbe solo il liquido. Non ti ne viene nulla in bocca, solo il vapore che fa come tiri che scalda e bu. Io ce l'ho adesso, la batteria ce l'ho sotto carica. No, questa è col carica batterie e due batterie, però quelle le vendono a parte. Infatti mi sono arrivate di domani, prima mi è arrivata questa, di domani mi sono arrivate le due batterie ricaricabili. E funziona benissimo, fa di vapore, non è fumo, sembra fumo, meglio di fumarti la sigaretta, manco non si fa di male. Soprattutto quello, e poi la boccetta delle cose costa 5 euro, cazzo, a me mi dura oltre un mese. A me mi dura anche 2-3 mesi una boccetta. Di quella da 100, da 100 milligrammi, perché va mischiata 50-50 e poi ci metti una boccetta di aroma. E dunque 102, dai, chissà, è piena. Perché adesso eri abituato alla sigaretta, no? Cazzo, ti viene un po' male con la scusa della sigaretta elettronica, cazzo, stai sempre a pippare, cazzo, la sigaretta, cazzo, quando lo tiri, cazzo, ti fai due, tre tirate e da voi senti un altro sapore, questa, cazzo, è tutta diversa. Questa, poi c'è appunto, ce la dico, la bipetta in bocca, così, tanto è solo vapore, non è che si va di male, poi io affidata ma come faccio? Dunque, se voglio ne fumo, se voglio non ne fumo, non è come prima faria un cane con le sigarette, questa qui la, ogni tanto la prendo, ci fu una sbaffata, e ma non è come prima gli affumava il vino. Prima cazzo. Soprattutto cazzo, un pacchetto a me non mi durava. Poi adesso costa un pacchetto 5 euro, sono pure aumentati, avrà voce. 5,50 costano adesso. Leoci, non stai uscendo adesso, sei uscito a tratti poco fa. Luca! Ho detto che costano 5,50 euro, guarda a vedere. Io l'ultima volta che le avevo prese erano 4,80 euro, poi mi ha detto mia figlia, bada domani aumenterà 5 euro, e allora gli ho schiacciato un zabacchino. 5,50 euro costano adesso. Chi ci sono fuori di capo? E allora, mi prendo una boccetta di aroma con quei soldi. Oggi quanto mi fate? 3 mesi. E a me mi fa un mese. Dipende da come te la usi, io non è che sto sempre, sì, ce l'ho sempre lì a disposizione, però ogni tanto vado le scuole con una baffata e buh. Invece prima con una sigaretta ti la fumavi e una, molte volte ti chiamava, ne la appoggiava e si consumava la sola, chi te la appoggia non si consuma, oppure si la lampavi a metà e più di una volta, capito? E ne consumavi di più, e poi più ti va di amare, chi non ti va giù, è vapore. E dallo gioco, è tutto lì, è tutto il gusto di sapere, abituarti a queste cose, capito? Poi la sigaretta, una volta che ti abitui a questa cosa qua, la sigaretta te la dimentichi. Ma poi tanto ti stufi anche di questa e poi non ne fumi più, hai compreso? Io se voglio non ne fumo nemmeno lì, me l'ho presa così, tanto va a provare. Ho capito, vabbè, ragazzi, sarebbe ora di smettere anche di tutto, grazie a parte per il dinà e a parte per la salute. Vabbè, con questa io mica faccio la sfilata unica. Lo tiro e ce lo butto fuori così subito, capito? Non le faccio mica faccia la sfilata unica al gusto. Ciao, animaco basso. Ho capito. E tanto per avere una cosa in mano, tanto battirà, compreso. Così ti distrae e niente. Però sono sicuro prima o poi mi stufo perché mi sta già stufando. Ho capito, vabbè. Tutto è l'abitudine, grazie a voi. Ogni cosa, cazzo, ce ne stufiamo, hai capito? Una volta che se ne stufo da voi, mandi a fanculo sigaretta elettronica e preciso la magna. E allora, se ripeto, io se voglio, ma questa e l'ho presa tanto per provarla, amico, così. Cioè il sapore già è buono, poi ci sono tanti sapori. Ti dà la bocca, beh, dammi, va a fare i miei soldi, ma ci mangiato la liquirizia, basta. C'è il sapore della liquirizia. Ho capito, e attenzione alle liquirizie, grazie, che quelle possono salire la glicemia, mi. Ma se lo aspiro, io non lo aspiro, no. La tiro e ce lo butto subito fuori, però l'aroma che ti lascia, il sapore, è di liquirizia, capito? Non è che la si mangia niente. Vabbè, no, io pensavo che avevi le caramelle alla liquirizia, allora vabbè, capito? Che di solito, cazzo, oltre a niente, cazzo, per non fumare si piglia quel bastoncino di liquirizia, no? Quelli di legno. E va a vedere che non sta fumando, è peggio, cazzo, perché è peggio con quella roba lì. No, io le liquirizie me le compravo in farmacia, non le compravo in negozio così. Così qualche volta l'ho presa lì all'Eurospin, però manca fianco a quella originale che vendono in farmacia. Cade Mazzaro Blecci me la compro una volta all'anno in farmacia, però ma non il bastoncino, proprio la liquirizia pura. E ho capito. E a me mi piace chissà, proprio quella pura. Il bastoncino chissà andava a cavare i denti, a chi ti faccia da un dente all'altro, quello lì già l'ho usato tanto tempo fa anche quello, però non mi piaceva, era per non fumare, me lo tenia in bocca così, compreso. E ho capito, vabbè. Adesso vediamo con questa cosa, io tanto scartando gioco un mese e mezzo che non tocco manco una sigaretta. Se continui così gli altri ne dimentichi, ma via. Luca Caggiuto, Luca! No, sono qua, mi stavo ascoltando, comunque la sigaretta elettronica fa più male. Guarda che ho guardato su internet, sono tutte balle, hanno messo in giro quella voce per non venderne, non hai capito? Io ho visto anche alle Iene, un'intervista fatta dalle Iene al televisore, in quel programma delle Iene. È andato proprio da un medico, da un pulmologo, questo è andato e gliel'ha chiesto, gli ha detto che non fanno niente quelle sigarette. Guarda che all'ospedale, quel tipo che aveva avuto l'incidente a Bancali, quello fumava e l'induttore non ridigiani nulla e nonostante che ci abbia un buco e un tubo nei piumoni, nei polmoni, che aveva un tubo dal fianco. Eppure non l'hanno mai detto nulla. Vabbè, uno poi si prende le conseguenze dopo, non è che. Cioè, se non può fumare, non sai chi fuma, non sai chi va a fumare. Quando non si può, non si può. Scusa. Perché c'è gente, con l'accusa di una si fuma un pacchetto. Ma questo non è fumo, è svapare, è vapore, mi. Compreso, pare fumo. Ma è vapore acqua. Presentami la quando volte la barriga a fare un vapore, così. Questa qui c'ha una resistenza. Tu tiri, scalda quel liquido che sta assorbendo e ne ricassi il vapore. Ho capito, però sono pericolosi. Guarda che c'è scritto tutto, è fatto da cosa di farmaceutico, di farmacia, nella bottiglia ci sono tutte le istruzioni, c'è che cos'è, a che cosa serve, che cosa, tutto c'è spiegato. Non fa male, se aveva fatto male non avrebbero fatto vendere, capito? Scusa, chi l'alcol non fa sì male pure lo vende, cosa si dice signora Grazia? Non l'hanno infatto ma fa di là, è inutile. Cosa c'entra? L'alcol già lo so così, ne vedi un bel ti fa sì male. Si imbriaccheggia e ti fa sì pure male, e ti ammazza pure. A chi ti rimane a rubicchia te lo salvisci. Ma oggi come oggi, se per quello tutte le cose fanno male, se uno ne abusa. E come se che tu mangi d'ugna di carri, la carri ti fai venire la cotta, la non so che ammalano ti fai venire, la cista e cocco mi fai venire pure, e altri malanni. E con il fritto a me piace molto, ma adesso faccio da me, non le mangi migliore. Il fritto lo stesso, il fritto fai male un bel, è un bel puro. Mi se capita che vieni già te lo faccio leggere la boccetta. E vapore acqua. E dopo che capisci va un filtro lungo 5 centimetri. C'è una spugnetta, un cottone c'è dentro. Dunque rimane tutto bloccato lì. Praticamente esce solo il vapore. Aspetta, grazie a te sì. Leucci! Oh dimmi, grazie! È lavorando sta! No, negativo! Ma adesso lo dovresti trovare, non è che cominciano a aprire i ristoranti, gli agriturismi, per l'estate! Oh, io ho fatto la domanda, stamattina ero dalle 8 di mattina, che ha aperto l'ufficio del convocamento a che non ne sono uscito. Mezzogiorno me lo dici. Lo so, un casino. Comunque la stagione in televisore c'era questo tipo, stava cercando 300 dipendenti, però dovevi essere disponibile a trasferirti. 2000 euro al mese ti dava. Che lavoro è? Una fabbrica era, non mi ricordo in che posto era questa fabbrica. Non riesce a trovare personale, così ha detto al televisore. E dipende da, lasciami dati, 2000 è qualcosa, più vitto alloggio. Cazzo, non mi pare vero, prendo, mi metto in contatto e parto. Al televisore l'altro giorno lo stavano intervistando, questo signore. Non riesce a trovare personale e ne le occorrevano 300 dipendenti. Ne aveva appena trovato 78. E allora ha fatto l'intervista alla TV per vedere se ci andava altra gente, capito? 2.000 euro al mese, c'ha un contratto non so di chi, per 1 miliardo, ha detto il totale, adesso non mi ricordo, insomma un totale enorme ha detto, e dunque Ridinai ha avviso. Abbiamo vedere dov'è, che posto è, e che cazzo, dov'è, sono in Alto Italia, e te l'ho detto, mi date il posto, l'alloggio, se mi date l'alloggio, io per 2.000 euro, massimo 2.500 ci sto partendo subito. Quello secondo me dovresti chiedere lì alla camera di lavoro, lì c'hanno anche le richieste per Furimi, per continente, per l'estero, dovresti chiedere lì alla camera di lavoro. E adesso, te l'ho detto stamattina, ero lì all'ufficio, ho consegnato quel foglio là per il conto del reddito di coso, no? E mi hanno fatto firmare questo foglio per che io sono a disposizione, se c'è un lavoro ha detto sarei contattato e mi avrei dove però. Quei soldi lì li danno, però devi essere a disposizione, se gli serve personale a qualcuno dove ti mandano devi andare. Primi 100 chilometri io sono disponibile, poi se mi vogliono mandare anche fuori, basta che mi date nell'alloggio e tutto quanto, che sia pagato tutto, io anche domani lì. Sento. Ma già presi gli aggiuse i soldi? Eia, mi hanno assegnato a me 500 euro. Ascolta, ma... vabbè, cioè, ma non è, cioè, con questi 800 euro gaggati non è che ti puoi mandare in continente, ma non esiste. Qua ce n'è da fare, mia, Sassari, è pieno da fare. Lo so, Luca, ma cazzo di quello, ho lasciato tutto quanto, i miei dati, tutto quanto, e ho davanti più di 30 passone all'ufficio che ho uscito che era di mezzogiorno, ma non me lo dite, dall'otto di Manzano. Ah, mi sa che manco ne accetto di quella carta, gliela rifiuto. Vedi tu perché poi, cazzo, se rifiuti non te ne dà di Però sento attratti, grazie. Ci sono galera pure. Ah, cosa galera? Ma già mi rifiuto, mica io tutto, cioè, ho... Guarda adesso, hola, 1, 2, 3, 4. Cioè, gira, mi va, la carta dopo 800 euro devo fare pure una carina, ma stiamo scherzando. Ma loro dicono così per farti temere, ma non te ne fai galera. Vero, l'unica cosa è che se tu rifiuti magari il lavoro, cosa ne so, per 2 o 3 volte, ti tolgono i soldi, ma cosa galera. Infatti. Ti bloccano la carta, se tu rifiuti ti bloccano la carta e non prendi più quei soldi. La galera c'è se fornisci la documentazione falsa e da poi ti sgamani, allora zitti di non si eggia, capito? Ma siccome lì stanno facendo i controlli la finanza, non penso. Poi il fatto che se tu non ti chiamano e non vai a lavorare ti bloccano la carta. Appunto perciò io ho detto, io sono a disposizione, poi se mi volete chiamare mi chiamate, se no mi continuate a dare quello che mi state dando. Io lo sento a tratti a Giuseppe, grazie. Anche io Giuseppe, stai uscendo a tratti di nuovo. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso sei uscito bene, poco fa anche Luca ti ha sentito a tratti. Perché ero fuori del poggiolo, dai. Hai capito, però Se ti chiamano per dire andare al ghetto a lavorare, per dire, se devi scegliere la rina, mi non so quanto conveni, faccio 500 euro, mi sa che non conveni. No, se mi mandano al ghetto, loro mi devono dare lo stipendio normale, Graziano, nel pregio. A me mi devono pagare come un dipendente normale, me ne toccano quelli, quei soldi dai miei vanno al datore di lavoro e il datore di lavoro mi deve aggiungere il resto. Ah, così è, è un ragazzo, che ti aggiunge, un aiuto, Luca. Luca! Sì, grazie, però, cioè, allora, cioè, uno va da Olbia, se uno va a lavorare a Olbia, pensi che già è, no, 600 euro, 800 euro, minimo 2.000 in biglia. Allora, poi, a quanto capito, di un'ora devi lavorare, però, cioè, sento andare, sento a tornare un po'. Allora, devi, per il tuo, per la tua cosa, Lu, per il tuo, come si dice, il tuo comune, devi fare 8 ore lavorative, capito? Devi pure stare 8 ore, è capito? 8 ore, ma ti bari, non ti bari un po' esagerati. Appunto, perciò loro devono, dice che se noi offriamo il lavoro, devi fare 8 ore per lavorativi per il tuo comune, capito? Per il tuo coso di dove sei residente. Ma chi si ammazza, niente, 8 ore. A me mi pare una bella zambare i fondelli. Ma ti pare basta 100 euro? Se ti chiamano di andare, non so, ma un mese o tu riuniti, ma buffoni. Questo è quello che c'è scritto lì nel coso, nel foglio, è quello che ti hanno detto, che ci hanno dato. Ma io so che se ti chiamavano dovevi andare per fare due, tre ore, ma non 8 ore, no. 8 ore. Ha parlato chiaro il coso, quello là. 8 ore devi fare, devi dare, essere disponibile per 8 ore al tuo comune di dove sei residente, capito? Ah, devi essere disponibile 8 ore nel tuo comune di residenza. E devi, se ti vuole chiamare o di mattano o di sera, tu devi essere disponibile 8 ore giornaliere. E se ti chiamano a casa di ora, tu devi andare a svolgere magari un'ora, 2 ore di lavoro. 8 ore devi fare, capito? Devi fare il tuo coso al tuo comune. Devi dare la disponibilità di 8 ore. Ehi, devi essere disponibile per 8 ore. Come se ti vuole chiamare a farli, che ti 2 ore o 3 ore, chi so. Lumazzano si può richiamare a passi in Cina, nell'arco di 8 ore, così deve essere Luca. Dottor Maniaco. E poi c'è Antonello che va di là con i preservativi. Appunto. Luca, vero? Io te l'appoggio. E io la spingo, e Leoncino ti stava cercando, lo senti? Oi. Cosa c'è, Giuseppe? Cosa c'è? Dimmi tutto, cosa c'è? Sono tutto gonfio! Tutto gonfio sei tu, Luca? E Lu? Vai, Giuseppe, che se ne frega, guarda! Imbarrato! Ah, grazie, stavolta sono andato a fare il rinnovo patente, praticamente ho fatto il 40-28 due volte, di cui uno da 16 e uno da 10-20, ho sbagliato! E nessuno non andava bene perché ci va il 90-01, il bollettino. E quei 10 euro li ho persi, perché se chiedevo un rimborso dovevo fare una raccomandata con ricevuta di ritorno, e se mi piace di là, se ci hanno fatto tutti. E pagato quei 10 euro in più? No, quei 10 euro e 20 ho perso. Pazienza, sai cosa vuoi fare? E se devi fare la raccomandata, quanto costa una raccomandata? Non conviene più. Ma infatti. E come hai fatto a sbagliare? Quello delle poste mi ha dato il motivo sbagliato. Ui, Immagina tu, andata a una scuola guida, ti ridavano anche la scuola guida, già precompilata, come gli avevano dati a me. E io sono andato a giubare a dare le borse, la borsa è buona. Vabbè, ma io li ho presi alle poste, capito? Già pronti. Sarà che nome e cognome, via, eccetera. Vabbè. Pazienza. Vuoi dire lo stato di ridurrà, segna, ricando la tempizione, vi rammenti. Anzi qui, con un bullettino, questo sono da aggiungere alla pensione. Sì, la pensione è manco così, manco così, manco di quelle che si attaccano alle porte, prendo io, va, per carità. E cosa, il casalingo te la danno? Che mano ripigli? Si travesse da femmina, le oggi. E va a fare ciucchi ciucchi. Pure tu sai. Oh, vabbè, Rubito di Antonello vai, Luca. Popu, oi, chi sei proprio malattia, entra la sera benedizione e pari. Come Becchini, ah grazie, come Becchini, entra, date la benedizione e ti sotterra. E così fa Zia Antonello, così rimane, è entrato sul barone ed è sparito. Ui, ui, ui, per carità, non è toccato nel freddo, cazzo lo dico a Antonello. E allora, basta che intendi a Mondandi, sparisce subito, Luca diglielo tu. Invece ci ha messo una bionda, ci ha messo quello buon po'. Ui, ui, ui, per carità. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi, dai, che devo uscire, dai. Ciao, ciao. Ciao Luci, buona passeggiata, fai da bravo. Sicuro. E tieni, ti informa o sai che ti chiamano. Io già sono pronto. Non ci sono problemi, grazie, io sono pronto, ho già le valigie pronte. Sicuro che c'hai le valigie pronte tu. Ma che rompi il tenente colonnello, entrato, grazie. Attore, ma ogni tanto sparisci, boh, non vedi adesso ti abbiamo chiamato. Perché sono entrato un secondo, ma tanto si vola, non peraltro, capito? E quindi mi sono aspettato 2 minuti, comunque adesso sento a tutti, da quando ho staccato la direttiva e ho lanciato l'antenna al palo esce meglio, cioè ricevo anche meglio addirittura, non solo l'altro, quindi sento a tutti. Diglielo tu a Luca, Antonei, che a te te la danno la casalinga. La casalinga? La casalinga me l'ha sempre data a me. E c'entra, c'è la bandata a casa. E beh Luca, hai visto che gliela danno la casalinga. Piada è tu. Ma papà si chiama ritorno a casa. Hai capito? Se prendo una ragazza, te la paga lei comunque 1330 euro al mese, sono mi. E l'ho fatto poi io fatti da Giuseppe, da parte del comune di Sassari. Quindi. Ritorna a casa Lessi. E beh Luca, hai sentito cosa devi fare? Via. Uia, ma carità, sono tutto fatto mio, beh. Tutto intasato di sopra, allucinato, non ne posso più. Allora, ieri sono salito sul tram, no? E c'era una puzza, giusto? E a me dove stavo raffreddato, così non sentivo gli odori, no? Mi ha accudito, sono raffreddato. Va. Perché quando sali sul traffico viene a salire con la mascherina, con tutti i viaggi di viso, per carità. Pucci! Ma la sorte però se a Luca tu lo prendi che ci sono tutte le ragazze in calore, cosa cazzo viene a fare della puzza a lui? Basta che faccia, capito, è maniaco, cosa gliene frega a lui? Non sai che ne frega nulla la puzza, E chi è maniaco? Io? Tanto se ci sono 5 ragazzi in calore, secondo te, cosa fai? Se ne frega nulla della puzza a te, ma se c'è in calore, tutti farebbero così. Ma io non lo posso fare che sono fidanzato, tu lo puoi fare, io no. Perché cazzo io non sono fidanzato secondo te? Io sono fidanzato 25 anni, io non sono fidanzato un anno e mezzo. Quindi, ne ho provato, ne ho visto, e via. Luca, Luca, se avessi abitato dove abitavo io, per carità, meglio niente, va, te lo dico io, ti sei avvicinato come le pulci, te lo dico io. Allora, avanti Giuseppe, prendi un attimino che era. Vado un secondo a prendere la maionese più che altro, capito? E devo spalmarla a Simona, la notte, che devo assaggiare. Mica ci vuole la vaselina, non la maionese. Ascolta, io uso la maionese, poi lei usa per me, capito? Ah, è giusto, esatto, ho capito. Luca, sentito hai? Euia, crocro. L'Italia maionese mi è nuova, Non ci avevo mai pensato. C'è gente che usa la... Cosa ti posso dire? L'olio di oliva, hai capito? Io me la maionese è molto meglio. L'olio d'oliva già l'ho sentito, per fare i massaggi è ottimo. Ma quando scalda sai come ti fa? Lo fa? Sembra che ci hai messo la pettina di cavallo e cosa ti posso dire? Dentro la pavella. Quando preghi cagli brucia buco. C'è un pizzafuco. Luca, niente ne sai tu. Lo so con lui, dai, parlate bene che c'è Marina vicino a me, parlate puliti, dai. E poi c'è Mari, c'è anche bambini all'ascolto, parlate puliti, grazie, dai, lo sai benissimo. Guarda che noi stiamo parlando benissimo. Allora, che male c'è? Voglio l'oliva, maionese, allora due, pelate Antonella. Sì, lo sai che la gente non è scema, capito? Aspetta di parlare puliti, voi fate come volete. Che malizioso può pensare quello che vuole, cosa c'è? Ma noi non è che stiamo parlando male, sono ingredienti alimentari, vero Antonio? Infatti sono la pia della maionese adesso, perché se ho detto che capito, non mi dà la roba da mangiare, quindi adesso vado a pigliare la maionese dallo spit e poi rientro di nuovo a casa, rientro veloce, diceva quella. Quella che c'è qui vicino a casa. C'era anche Giuseppe, poi gira anche a lui, là. Già vi prendo fa... Già vi chiamo proprio appresso al limite. Se mi sentite già vi chiamo direttamente da quello, da per caso che dice, là. Già vicino le ruspie, è in basso da casa di là. Già ci sono andato in quelle ruspie un paio di volte e si compra anche bene. Lo so infatti. Vabbè, datemi 10 minuti, 10 minuti e 4 ore, che vado e piglio la roba e poi sono rientrato. E pigliate la lucca, non te la pigliare a male, stiamo parlando di roba da mangiare, stavo parlando di altre cose, non ti preoccupare. Io sto solo dicendo che la gente non è macca, capito? Vabbè, non c'è problema, fate come volete. Uia, mamma, tu la sui miei ammazzelli. E il picchi di me sotterai. Cosa fa? Se ormai è in fase di sgocciolamento. Eia, Tore non si è sentito per niente, Gio Maria neanche, Marino sarà su Ragheni, tira tra con animali. Mi sa che sono in campagna, Ghissi, oggi bella giornata. Può essere pure, bella giornata non molto, c'era quel vento. Vabbè. Oggi cosa buona hai mangiato? Io brodo. Oggi ho mangiato gnocchetti al sugo. Io ho mangiato gnocchetti al sugo, pollo con i piselli e frutta, boh. È una mezza belga. Non ho capito che la baletta con il telefono mi ha cremato la zimpara. Ho detto che ho mangiato gnocchetti al sugo con sugo con la salsiccia, poi ho mangiato il pollo con i piselli, insalata, la belga e frutta. Volo, volo, no, io brodo di pollo, pollo, carote, patate. E poi c'avevo da rimane, mi ne era rimasto un poco, la trippa, la salsiccia, gaggio e buh. E la frutta, arance, banane, un arancio mi ha mangiato. Ho capito. E quando non sai più cosa fare, l'altra sera non sappiamo cosa fare, mi ho preso la pizza, il calzone, lì a Sant'Orsola. No, lì alla ruota, a Sant'Orsola erano chi ci hanno fatto ponte. Però mi piace, mi è piaciuto più quello che avevo preso a Sant'Orsola che quello della ruota, come era condito il calzone, quello chiuso. E poi so come sei messa, qua, dietro. Già andava. Lascia un attimo, grazie. Già sono qua. Pompo, ah. Marchisio, che cane è Gian Maria? Marchisio. Luca, va, ci sì. E beh, grazie, ci sì. Eia. E beh. Sì, è qua, sto. Eia, dove le è andata a Cagliorese, all'Eurospizia, è vicino. E chi se ne è andato? Eia. Cosa? Se ne sta così vicino meglio. Ti ho detto a Puglia. Ah, Leoncino, è uscito. Non va nessuno oggi, tutti morti sono. E allora, tutti morti, ma come dico? Tutti i baratti si ci sono, a Santo Brito, no, a Santo Mauro. E Luca Frippero lo stesso, non si è sentito, boh. Non lo so. Eia, io, rogarinale. Oggi mi avvenano i miei, chi si rubaretto, se era ancora interessato. L'ha descritto, boh di Dio. Padre? Mi ha mandato un'email oggi, è arrivata, se era ancora interessato a quel faretto. E l'ha descritto a boh di Dio, così impara a farmi la notifica. E Ed mi ha detto che quella parte in automatico e faccia come ti dibiace, va a trovare buvuti. Ma perché l'ho ricontattato per sapere qualcosa? Non ti aveva risposto? No, mi aveva risposto nelle mail che l'articolo non me lo mandava perché il pagamento era PayPal e io gli ho detto come il pagamento io ho letto nell'inserzione vostra. Che c'è PayPal, Mastercard o contrassegno? Io, siccome non funzionava la macchinetta qua per fare la ricarica della PayPal, ho segnato che pagavo a contrassegno e gli avevo mandato anche lì mio. E poi non mi arrivi da ripulsa, da vedere a Giuligi Du, chi c'ha notifica che avevo ordinato il parete e non l'ho pagato. Chi lui ha pagato tramite PayPal. L'ha detto, ma che tu ma fu imbriaco. Grazie, ti consiglio di non pagare mai con PostePay, Mai, perché ti foto nessuno. Già l'ho sentito quello. No, infatti già lo so, già l'ho sentito altre volte. Adesso non lo so, mia figlia è già un mese si tende. Non lo so se ha pagato con la posta P, se aveva ordinato, non mi ricordo cosa, ed è ancora arrivato. Ma io, guarda, una volta non mi ricordo, avevo messo 140 euro, mi sa, se non mi ricordo bene. Devo fare un acquisto, li ho lasciati nella posta P. E poi ho deciso di fare l'acquisto e non me la potevo numero mi dava un errore. Strano. Vado alle poste, controllo lì, la macchinetta. E c'erano 2 euro mi sa. Ci sono avvistato 40 euro. Praticamente mi hanno preso i dati dalla carta e sono fatto gli acquisti, ricariche telefoniche e un pacco hanno ordinato. No, io quegli ordini che mi devono arrivare questo mese, no, no, 9 articoli sono. Li ho pagati e tutto, e mi devono arrivare, però tramite la PayPal l'ho pagato. Solo che dalla Cina ci mi impiega quel tanto di tempo. Mi arrivano tutti a maggio, questo mese che entra adesso. E il 24, il 18, il 19, il 10, ci sono tutte le date quando mi arriva la roba. E poi c'è il transito dove è arrivata. Io guardo, no, c'è la cartina e c'è il transito. E poi quando è in consegna ti c'è scritto domani in consegna. Però già lo so. E già ne faccio pure acquisti, io compro su eBay spesso. Una volta su cosa ho comprato, su l'altro, si chiama Amazon, ci ha messo un mese ad arrivare. L'ho fatto su Amazon, mi è arrivato in 3 giorni. Quella roba che compro dalla Cina ci mette sempre un mese e mezzo, o quasi 2 mesi, da 2 mesi, 2 mesi non ce li mette, quasi sì però. Ma è dalla Cina, di qua strada ne base. Lo so, è troppo tempo, se io devo riparare una cosa. Ci sono dei venditori e venditori. Cosa adesso? Magari quello ti spedisce una cosa, ti dice che arriva quel giorno lì, cioè magari il 10 e ti arriva prima. Invece c'è quello che ti dice che arriva il 10 arriva, e non ci arriva proprio il pacco, arriva dopo un mese. Strano, eppure la spedizione è uguale. Secondo me dipende da loro, non so, dipende dalla zona. No, dipende dalle fabbriche che ci sono in Cina. La Cina è grande. E dunque non è solo da uno stabilimento che arriva questa roba. Magari uno stabilimento prendono un articolo in un altro luogo di la Cina, ritirano l'altro articolo che hai ordinato tu, in un'altra città nella Cina ritirano un altro articolo, capito? E ecco perché magari c'è la Cina più vicino, quel posto più vicino ai confini con l'Europa di Mu, e quello lì che arriva prima, capito? Sì, sì, io lo so, Beh, ma Wish lo stesso un mesetto circa. Però là su Wish sono registrato, però non ho mai comprato niente. No, io ci compro un bel di cosa. Capita, cosa mi dai gli stessi articoli che trovi in Italia, qua, noi i loghi ci costa 300 chi dà ormai i 30 euro per dire, non è per dire. Adesso un'amica mia ha preso il decespugliatore al padre, lo sai quanto l'ha pagato? Ci ha messo 2 mesi e una settimana a arrivare, gli è venuto a costare 30 euro un decespugliatore che i loghi costa quasi 300 euro. Cazzo, che marca è? La marca è marca buona, è uguale, identica a quello che vendono qua, preciso, spiccicato, anche la marca, non mi ricordo, Alpina, ecco, Alpina. Ho capito, buono allora, 30 euro, ma compreso di spedizione? Sì, 30 euro compreso di spedizione, ed è un 52 di cilindrata e va che di un manubrio che pide con tutte e due mani largo, quella sta larga, cioè, a manubrio. Garelli va? Ah? Ho detto che c'è il manubrio come il Garelli. Quel manubrio largo c'ha l'acceleratore a levetta, c'ha nel manubrio. A me me l'ha fatto vedere, è grosso come te motore, è propulsione, è un treno. Meglio così, 30 euro regalati. Ma pure se lo pagavi 50, andati a me. Buono il prezzo, buono. Anche io me lo volevo comprare uno, ma solo che la gente vuole le cose a regalo, capito? Vuole che metti la benzina su, taglia erba, il filo, dai, va, metti altri 50 euro, cagati. Ma non esiste. Allora non. Sto qualcuno che magari ti fa lavorare e ti paga bene, sì, allora me la compro. Guarda che mio nipote ce l'ha a dare travagli che si prende in questo periodo a tagliare l'erba. E lui nel prezzo che ti chiede ci include la benzina della macchina e la benzina del recirculatore. Quello lo devi vedere tu lo devi includere nel prezzo che gli fai. E se non ci rimetti, no? Lo so. Adesso devo controllare se trovo un imperiale per la macchina di Marina. Io ce l'avevo l'imperiale della Punto e ce l'ho buttato, era nuovo nuovo. Ma non va bene per la Ford. La Punto che c'avevo io non ne aveva così d'aggancio, agganciava, cioè c'aveva due incassi negli sportelli anteriori e gli sportelli di dietro, perché c'avevo 5 porte io. E incassavano lì, poi tu agganciavi alla base e dall'altra avvitavi e rimaneva bloccato. C'erano due guarnizioni. Non lo so, grazie, non sono tutti uguali. Devo dare un'occhiata, magari qualche sito, anche usato, e va bene. È comodo il portafacchi. Allora, usati ne avevo visto io a Portobello, nella porta di dietro, dove appoggiano tutto in quello scaffale, la porta dove scaricano la merce, lì vicino, tutta rubata al muro, lì dovresti andare a guardare, oppure a Rubiduccio, ma io li ho visti a Portobello, li avevo visti, e i portafacchi. Ma chi se è il ladro, Ho visto che c'è un bel lavatrici nuove, boh, c'è di via Bugatti. Chi se lo fiducia, io sono così tenna a Portobello, e c'ha lavatrice anche frigoriferi. Chi ci sono del 1930, chissà da che marca si non erano ricavati. E poi non sono neanche classe A. Chi ci sono le vecchie lavatrici. Chissà, saranno gli a mezzo pratiche, chissà che a magazzino erano, sicuramente qualche negoziante che non le ha vendute e ha fatto a blocco, ha pigliato di tutto. Ammutinaggio, per carità, Pucci, mi sono andato due o tre voci, ma... Allora, io sono stato a farmi valutare un telefono, era un Samsung Galaxy Note 1. Era nuovo, ma nuovo di pacca, avevo messo un display nuovo, era fiammante. Mi puliva da 90 euro, e ora mi peso 150. Anzi, t'ha offerto anche troppo. A che se no un 20 euro si unisci. O ti pigli di 20 euro o ti innalli. Non è la debito di Agostino. Ah, va, dai 20 euro non esce. Sarà Bidellucci, poi siamo andati a prendere una rete con Maria, a Doghe, a carità, di Muria, che tu Muria mangi? Allora, Mondetta, roba tutta forza, tutta così. Era un camion, Ma va, no, sono detto che la perfetta lo stesso era sporca, mancavano i piedini di gomma, quello di fronte a Sciana era tutta Mondetta, tutto sporco. Siamo andati da Conforama, l'ho comprata nuova, ho speso 10 euro più, però era nuovo e pulito. Già lo grido. A Portobello non c'è guardato, a Portobello ne hanno anche nuove, dentro la busta, e costano di meno di Conforama, non sono usate. C'ha sotto quello scaffale, ce li ha matrimoniali e singole. Ce li ha ortopediche e legno e ce li ha anche con le doghe e ce li ha anche in ferro come ti ribadiamo in prima. Nuove però sono. Lo so, Ma l'abbiamo, ti faccio un esempio, tu vai a chiedere un monitor di computer, te lo passi magari 40-50 euro. Ma vai, coccati, là. Un giorno sono andato così, giusto a farmi un giretto. C'erano questi monitor 30, 40 pulia, un monitor di computer te li cucina a barria, va. Comunque anche ho visto nel gruppo, grazie, questo tipo stava vedendo il monitor del computer, voleva il tubo cattolico, cioè 30 euro una, ma se sono lampendi, cioè te lo buttano, ma cosa, ma cosa me ne regalava lo prendevo? Se compra il vento la giuvizio mi dà uno scemo che si computer antichi di la valla, come per un televisore, che si con il tubo cattolico. Tutto completo 150, con una scrivania di 13. E che si compite del 1900 in Prussia, dice questo è malato di gap, è capito con pareggia. Con quinto è questo, ti lo vendi. Avrà vedere fra poco nel buco, che tanto non ne migliare più. Sì, ma tutta mondezza, dai, usa, fa carizzare. È raro che compri, che trovi cosa nuova, mi è difficile un bel. E poi la roba buona si la vuoi, ti la basi nel bagappuno, tatuare uno, aggiunge qualche cosa, vai se la compra nuova al negozio, perlomeno. Oh, dipende da uno anche cosa compra però, per dire, perché io ho preso un mobile a quattro sportelli e due cassetti, quello uguale a questa cucina mia, sempre fatto dal falegname che mi ha fatto questa cucina. Perché il disegno è uguale a questa cucina. Me l'ha fatto pagare 100 euro e me l'ho preso subito. Ma è nuovo ed è uguale alla cucina che ho. L'ha fatto un matese che l'ha fatta a me, Santona. È lo stesso disegno. Sì, ma il discorso è che sta mondezza di dato, non fa. E vale, sai che si salva un po', Portobello, no, assai, Portobello va roba buona e va pure mondezza, se tu abbai di me, già ne ha mondezza pure Portobello, non ti preoccupare, è un bel pure un bel gusto, vinne. Però Portobello è diventato l'onfio, io infatti prima gliene portavo un sacco di roba, adesso, per dire, la cristalliera mi voleva dare 200 euro, la gente adesso ne l'ha aggiunto da Rurito, hai compreso? Noi era macco, no? Aspetta, grazie, ti faccio una chiamata. Eia! Oh, grazie! Ehi, dimmi! No, ho chiamato un amico, scusa, gli ho fatto vendere un computer, gli ho detto la borsa dalla me. Sì, l'ho detto più volte, l'ho chiamato adesso. Mi ha tagliato pure la borsa, cazzo di parola proprio. Ma chi dice che l'ha venduta? Oppure si l'ha attenta a non te li dati, grazie. È proprio uno schifoso, perché a me quando una persona mi dà la parola è quella, a me se mi dicono una cosa, io è quella e buh, non la cambio, assolutamente. Allucinante, che gente schifosa, cazzo. Ma io la borsa del computer me l'ho comprata da Ruginese, bella pure, c'è un sacco di compartimenti, l'aveva pagata a 7 euro, ed è c'ha la cinghia, e c'ha la maneccia, e c'ha 1, 2, 3, 4, 5 cerniere, c'ha, e uno sportellino a strappo anche. Cosa c'è? Ma io gli ho fatto un favore, ho detto che non è voglio mi dare la borsa a me. E poi c'è anche la borsa di adatto. Che schifoso, a chi sa mio, o si la tenta Edo, o si la venduta a parte di questa borsa. L'avrà detto mi che non compiuto cosa l'ha venduto. E l'ha detto mi se quella borsa mi dai e se l'ha fatta in dinà. Sì, intanto ci ha punito con i gatti. Graziano! In giro. Non ho capito, siamo rimasti d'accordo così, non è che mi ha detto se me la fai vendere ti do tutto, no, ho detto dammi la borsa a me che mi serve per il mio computer, siccome ne avevo qua, tre o quattro, le ho tutte regalate. Graziano! Io, a me la posso pure comprare. Graziano! Problema, però a me quando uno mi dà una parola è quella, poi quando dice un'altra cosa a me mi si girano le balle, scusa. Ma stai tranquillo che dice. O se ha pensato e se l'ha tenta Edo oppure se l'ha fatta andina, non ti preoccupare, fanno dal latte gratis, anche se gli hai fatto il favore, intanto il favore gliel'hai già fatto tu, Dunque, non hai coprito. Perché? Vabbè, già, già torna a tiro, Bruetto. Proprio già torna. Niente, Graziano. Ehi, chi è il Brecche? Ma sì, sono Graziano, sono avanti, so. Brecche. Ciao, Marino, ben sentito. Io e Luca ci siamo. Ma non c'è nessuno, Ettore, Bacchiso, Gio Maria, non c'è più nessuno, boh. Io ho capito. Permesso, permesso, passo io. Ma quando è arrivata adesso? Gli altri penso che siano tutti lì a San Paolo. Tutti a San Paolo, Bobby, Adria, Edo. Buonasera, signor Bacchisi, avanti. Ok, buonasera Marino, buonasera Luca, buonasera Graziano, ve ne ascoltate tutti e tre. Non so a San Paolo, a Santa Cosa, a Santo Zeta, lo so. Tutti a Santo Zeta, lo so, Bobo. Ciao Luca, avanti Luca. Ehi, ciao Marino, ciao Bacchisio, dai. Dai, io chiudo, tanto c'ho un ostaggio tappato di nuovo, mi viene male anche a parlare. Ci sentiamo domani, dai, se Dio vuole. Ciao, grazie. Sono tappoletta anche da parte di Marina. Ciao Bacchisio, anche a te. Ciao Marino, riprendi tu Bacchi, ciao. Ok, riprendo io, forse Luca ha chiuso, si sentiva un po' a livello quereme. Ciao Luca, avrei sentito, domani se concide saluto la 25, ciao. Avanti, grazie. Ciao Luca, ok, a domani se concide, salutoni da parte di Paletta anche a Marina. Statemi bene, bene Meda. Beh, anche io chiudo, là, che mi devo fare l'insulina, Mari. Ma chi, oggi sei entrato più tardi, ti lascio in compagnia di Marino. Rilancio a te e vi saluto tutti e due, anche chi è in ascolto. Uno che ci farà da Santo Paolo. Ciao a tutti, a domani. Ok, ok, riprendo io, grazie, ciao, ben sentito, sono tutto in casa, a domani, se coincide anch'io, guarda, due minuti poi, siccome c'è gente, devo chiudere. Bene, avanti, ma chi? Dov'è in campagna? Adesso si è salito, sì. Ehi, ciao Graziano, buona serata, saluto la signora, buona cena, buon tutto, ciao anche a Luca, buona serata, Luca, sono tutto in casa, a domani, se tutto va bene. Ehi, così, ma in campagna ero in campagna. Un casotto, ma chi? Un casotto, E allora, tutto a posto, sì? Sì, quello che è a posto. Quello che è a posto va bene. Ciao, mi ascolti stasera, sì? Certo, ti sento un leggermento qua bene, però ti ascolto bene, dai. Allora, bisogna spostare la questione. No, già va bene, lascia così, Bacchino, già lascia così, già va bene. Gigante. Ehi, ho detto Maria, stasera tu mi hai chiamato, ho trovato una chiamata. No, negativo Bacchi, forse ho partito la chiamata, c'avevo in tasca, forse è partita. No, lo so io. Ah, ok, no, ci ho trovato la chiamata tua di un altro. Un numero che non c'era nome. E tu, se mi vuole già mi richiamo. No, da me sicuramente c'era il nome, io come tu, quando tu richiami, esce il tuo nome, no, non sono io. Oh, molte volte lo sai, le tiene in tasca il cellulare, parte la chiamata, non ti accorgi neanche. Sì, quello parte da solo la chiamata, certe volte ti dico un fatto. Si mi ha acceso il telefono un giorno in campagna, stavo parlando non so con chi, è partito il numero di mio cugino, dice per mezz'ora mi ha sentito parlare discutendo di roba di campagna, questo e quell'altro. E io non lo sapevo, è partito da solo il numero. Che succede? E te ne è succiato tu, te ne è succiato, così è? No, tu te l'ha accusato. Ma ha detto, tu hai detto questo, hai detto parlato io, non ti sei accorto che stai parlando con me? No, io no, ce l'avevo in tasca. Figurati. Bene, bene, da Bacchì, ok, dai, che mi stanno chiamando, te lo sei, è arrivata gente. Ho acceso lì tanto due minuti perché ce l'avevo sempre acceso e io la sera accendo tutto, anche se non ci sono. Faccio scaldare. Ci sentiamo domani, Bacchi, dai. Ok. Ciao Bacchi, saluto in casa, domani se concilia, saluto tutti gli ascoltoni, anch'io faccio chiudere quelle ti dai. Ok, ciao Marina, salutissimi, grazie di essere entrato a salutare, saluto in casa, a domani se concilia. Tanto domani non lavori perché il lavoro non si lavora. A domani Marino. Che ciao Bacchia, Gio Maria oggi sta arrostendo, Gio Maria so che doveva arrostire gamberoni, porcetto oggi, grande festa a casa sua. Bene, ok, Giovanni, se mi stai ascoltando, buona cena, salutoni tutti i componenti che c'hai in quella parte. Ok, io faccio più questi, ciao. Ciao Mario. Ciao, ciao. Ciao, signor Bacchisio. Mia squadra, mi ha esercito. Sì, non potevo entrare. Stavo facendo cosa e mi sono liberato 5 minuti. Sappi bene cosa, già sei proprio impegnato, mi sembra che sei un ingegnere scientifico. Vai per Bacchisio, Torricino, vai. Ciao. Ehi, Tore, ciao, buonasera. Tutto bene? Sì, stammi bene. So che stavi lavorando e sei rientrato Anzura. Purtroppo non potevo entrare prima. E adesso io sono arrivato, 10 minuti fa sono salito su. Ho acceso e ho sentito Graziano con Luca. Un attimo, sto che sto chiudendo anch'io, c'è stato qualcuno che mi ha salutato. Avanti che mi ha salutato. Ehi, ciao Mario, salve tu. Ma chi sei? Antonello, sì. Ehi, Antonello, sto, ciao. Ciao Antonio, ben sentito. E ascolta, per quella commissione ci vediamo giovedì mattina, ti faccio uno squillo perché sono in zona, là. Sono in zona e poi li accendiamo prima, là. Ok, domani secondo ci sentiamo, faccio quello di là. Ciao, riprendi Antonello per Bacchisio e c'è anche tu, ciao. Bacchisio non lo sento, però. Ciao Mario, ci sentiamo alle prossime. Ciao Marino, ciao, a domani. Antonello non lo sento io, so. Io intendo appena intendo. Antone! Certo, quasi a 00, proprio 00 Sono qua al riposizione di fronte a casa. Ma va che ci intesi più bene, più asso buro, forse perché ti sei pulsato. Andate bene. Ascoltato là i Bacchi? No, con questa antenna che sto usando adesso no. Perché mi viene a spalle lui. Purtroppo è basso, a volte mi arriva forte, a volte mi arriva 0-0. Che andiamo, dove andiamo? No, andiamo male, dopo, non sa cosa andiamo male. Perché? Perché se sono ascolti si fa male. Andiamo forti, andiamo. Ehi, vabbè. No, sto provando il giocattolo che ho costruito. Sì, cosa vuoi fa? Andiamo. Antonella, ancora c'è? Antonella, ancora ci sì. Ehi, ci sono, dimmi tutto. Cosa vuoi a dirti? Quello che vuoi, tanto sento... Lo senti? Adesso. Basta, ma già lo senti. Sì, guarda che ti sta salutando Bacchisio, ti sta salutando. A che non ti intendi, Edo? Aspettate un attimino che provo a cambiare. Adesso non ho ascoltato neanche io. Da va. Ehi, Bacchi. E così, signor Bacchi. Stavo cambiando antenna, tu. Adesso mi ascolti? Ehi, adesso io sei arrivato più forte. Allora dovrebbe ascoltare anche Antonello. Antonello. Del bar dove c'è il fornitore, sta la birra in casa. Te ha detto se bevendo una birra, se bevendi, a faccia nostra. Non mi ascoltano. Antonello, ascolti a Bacchisio. Mezzo passaggio. Grazie, sono in mezzo ai palazzi. Si sbatte sul palazzo la modulazione. No, non ti ascolta Bacchi. Non da va. Detto che non ti ascolta. Se tu mi ascolti più bene. Adesso ti sento più forte anche. In direzione tua adesso. In direzione mia le bussa. In direzione sua la devi mettere. Come? In direzione sua la devi mettere per sentirlo. E basta, è a livello di parapetto del terrazzo. Ah, così è. Guarda, devi mettere più in alto per sentirlo più forte. Infatti, se lo porto più in alto mi sento più forte, sì. E poi ancora in fase di ultimato. Oh, te l'hai costruita? È costruita, ma bisogna fare le rifinizioni però. Se va, se non va, pazienza. Da Marino arrivo a saluto a tutti. Andate. So che ci vuole un rotore, ci vuole per farla girare. No, ho parlato con coso. Sono una indiana. Mi prende poco, 10 euro al giorno, quando mi serve per girare l'antenna. La gira sopra l'antenna e me la gira. Anda, catta. Stanno a comprare un rotore, di cui c'è più un rotore che l'antenna. E allora, ma il rotore rompi burro, anda bene. Antonello, bionda sta facendo, bionda. No, non ti sente, non va chi. Ma se tu non ti intendi. Ehi, ti intendi così a me? Non va, ti ho detto, tu come metterla dentro un barattolo? C'è le quattro pareti dei palazzi, io te l'ho incasciato dentro. Se non sollevi, sbatti ai muri e non vai va, è cemento. Infatti, deve girare piano piano e metterla a parte sua. Poi se quando è più in alto, forse mettendola così, riusciresti a sentirlo. Andando in alto però. E chi è che ci mette la scala, ci vuole? Una scala ci vuole a portarla più in alto. Un tubo vivo. Un tubo è cosa? È forza da buia girare un tubo. Capito? Non va bene così. Non va bene. Sono attrezzi, bisogna avere tutto. Ehi, catta. Ci vorrebbe anche il rotore, ci vorrebbe. Ma... certo, passabile, con questo montone di naghi sul rotore. E costano soldi, non è cosa facile, no. Costano soldi e non ne vai la candela. Infatti non ne vai la candela, no. Tante cose ne vai. Ah, a me già mi va il saghivaggio. Naggio troppo puro, non finirà un po' più di là. Non butto più neanche un centesimo. A te no che un casino di radio, mondezza vabbè, perché non valgono più un piffero. Ah, io lo stesso, non ce ne butto più soldi, no. Ti so che il vaggio mi basta, è finché troppo burro, Allora vendi, se ne hai in più venditi. E cosa dovrei vendere? Gatteri con pareggia, fa cosa, gatteri con pareggia. E io sono appassionato di roba vecchia e si ribiglia. E cosa ridogo? Boh? Ciò che si contratta in Dio. All'inizio, poi ne compri il gioco nuovo tu. Oh? Faccio di gomme, mi tengo che so che faccio e boh. Ma tu fai lo manno in questa frequenza, no? Io è grande come ce l'hai tu. Ah, con quello stai usando? La 27? No, la 27 sta quando l'ho usato, domenica l'ho usato nella 27. Ah, riposare l'hai messo. La 27 c'ho il coso, il presidente sto usando. Ah, e questo va bene. E per l'altro non lo stai usando, mi siamo prendendo la malattia. Quale? Questo che sto usando adesso? No, il 140. Domenica l'ho usato. Quindi lì, se non li usi, si prende il raffreddore. Lo uso ogni tanto, lo uso. Ha già visto che già esce dove? Domenica. Basta farlo, è caldo un po' carino, esce bene. Bisogna fargli un po' sotto. Bisogna scaldare prima, se no non vanno. No, io non c'ho il pace qua, non lo faccio, l'Intec. Bisogna pochi a caldire, adesso è più di un mese che non lo accendo. Infatti. Devi lasciarlo scaldare un pochino e poi ci muove lì sopra. Sì, ma se non si scalda lui lo porto giù in campagna, lo metto dentro la serra, se no si calde. E se non arrivare un poco vicino. Se non si scioglie il muro. andiamo, bobo. Lo si muove, mi ci stava così bene, minimo 60-70 gradi. Stasera bene si stava giù. Dentro non si può entrare, senza dentro il muro è soffocato. Col venticello che c'era stasera. Adesso mi si sta bene, quando comincia a calare il sole, rimane con la temperatura fino a domani mattina si sta bene. Poi esce dal rosso e dovrà continuare la capompata. E aiuta, hanno cominciato a far caldo. Ma uia. E allora apriamo le paratie, apriamo tutto per far circolare l'aria, se no la roba non cresce, si raggonzi. Infatti, la roba non cresce, se no. Infatti. Ed è così. Mi pare io ando a pigliare i medicini. Al buio, qua dentro, non ho visto un piffero, però mi pare sia ora. Lascia vedere. Via, ora di merendero, ecco. Le 8:05. Va bene, Tore. Ce la sentiamo domani, ce la vediamo, vedi un po' tu, dipende tutto da te. Ciao Tore, buona serata ancora, un saluto in casa, a domani se concili. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani, ci sentiamo, ok, ciao Bacchi. Ciao Tore, ciao, buona serata.